9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buona vigilia di Natale, e questa puntata la dedichiamo per una prima parte agli italiani all'estero, ma quegli italiani che all'estero che si spingono o per che si occupano di aiuti allo sviluppo, di cooperazione, di ONG, o perché lo fanno per turismo, si spingono in alcuni paesi delicati in cui le condizioni di sicurezza non sono garantite. E allora, proprio partendo da una vicenda molto delicata che riguarda due cittadini italiani, un rapimento, approfondiremo i rischi che si corrono in alcune aree del pianeta, le informazioni necessarie che bisogna tenere in considerazione, ed approfondiremo anche alcune circostanze di questo rapimento. Nella seconda parte invece, come gli italiani sono visti dall'estero, quindi con alcuni colleghi corrispondenti di grandi quotidiani faremo un punto di come in questo anno è stata vista l'Italia in un contesto che vede i pesi relativi dei grandi paesi mutare molto, e per una volta il nostro paese non stare forse troppo male rispetto ad altre nazioni che devono accelerare molto per uscire dalla crisi l'aumento del loro debito pubblico e devono riallineare un debito privato con cui finanziavano i consumi molto più elevato del nostro. Non montiamoci la testa, naturalmente, ma si tratta di capire come la nostra immagine è mutata. Ecco, ma cominciamo intanto con la prima parte. Avrete capito che io mi sto riferendo alla vicenda delicata in corso, è quella di Nicola Sergio Cicala, siciliano che vive a Carini, e della moglie, la moglie originaria del Burkina Faso, Philomène Kabouri, che venerdì della settimana scorsa sono stati rapiti mentre erano in viaggio nella Mauritania sudorientale verso il Burkina Faso. E la vicenda è delicata perché è un rapimento sul quale grava il sospetto che si tratti di una vicenda a metà tra predoni locali e forse collegamenti però con reti di Al-Qaeda, Al-Qaeda del Maghreb, in quella parte dell'Africa. Noi abbiamo con noi collegato il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Fabrizio Romano. Buongiorno, Franco Romano, mi scusi, buongiorno. Sì, Fabrizio Romano, Fabrizio, buongiorno Romano. A lei, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Mi scuso, auguri. Avevo il nome sbagliato dato in regia. Naturalmente noi sappiamo e rispettiamo l'impegno che ha la Farnesina in questi giorni delicati, che è quello, ce lo chiarirà anche Romano, di tenere il più stretto riservo sulla vicenda, in particolare dove è avvenuta, quali sono gli sviluppi, quali sono i contatti. C'è un'esperienza storica sedimentata naturalmente di mediazioni dirette e indirette per risolvere questi problemi, e naturalmente noi ci auguriamo, nel pieno rispetto anche della sensibilità dei parenti di Cicala e di sua moglie, che la vicenda, come altre in precedenza, come avvenne in Yemen, e ne parleremo anche più avanti, abbia un positivo riscontro. Cosa ci può dire Romano, e soprattutto che tipo, oltre a tutti gli approfondimenti del caso su questa vicenda, ma che tipo di cautele, di informazione coloro che fanno i cooperatori, vanno per ONG in giro per il mondo o anche per turismo, in quali parti del mondo devono tenere in considerazione prima di partire, cosa possono guardare, approfondire e sentire per evitare di ficcarsi in situazioni o impreviste oppure prevedibili e purtroppo non previste? Prego Romano. Certo, beh, innanzitutto complimenti, lei ha ben inquadrato il problema. E le sono grato anche di aver fatto riferimento al riservo stampa che la Farnesina deve tenere in relazione alla circostanza del sequestro. In generale, per gli italiani che si recano all'estero, soprattutto diciamo temporaneamente, diciamo per motivi di turismo o di studio per brevi periodi, quello che noi facciamo, cerchiamo di lavorare sulla prevenzione, cioè noi cerchiamo come Ministero degli Esteri, in particolare con unità di crisi, di informare il viaggiatore sui possibili rischi che incontrerà, che potrebbe incontrare recandosi in un determinato paese. E questa informazione che noi diamo ha un carattere molto dinamico. Perché? Perché è vero che esistono, tra virgolette, paesi a rischio, nel senso, se per paesi a rischio intendiamo quelli dove sono in corso per esempio conflitti, ovviamente la lista è quasi ovvia. Esistono però tipologie di rischio che hanno come caratteristica la trasversalità, la fluidità e, ahimè, l'imprevedibilità. Faccio un esempio: il terrorismo è un fattore di rischio molto presente e anche particolarmente discusso. in occasioni come queste? Beh, se noi pensiamo che il terrorismo ha colpito duramente negli ultimi anni proprio in paesi che naturalmente non possono considerarsi a rischio, penso alla Spagna, penso alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti. Quindi questo è un esempio di come una tipologia di rischio può essere presente in determinati periodi in determinati paesi, non considerabili a rischio. Oh, ma il caso di, mentre negli anni, decenni alle nostre spalle c'era una vasta informazione su quelli che si chiamavano i Rotten States, cioè insomma i paesi in cui la sovranità non è garantita, perché era uno dei temi collegati proprio alla cosiddetta guerra contro il terrorismo, con l'amministrazione americana che aveva dato tutta questa enfasi a questo. Negli ultimi tempi, soprattutto da che è scoppiata questa crisi economica, l'attenzione della stampa, di quella generalista a questi temi è scemata. Allora, il numero di paesi in cui in realtà si rischia da vero, perché adesso si scopre che c'è la Mauritania, il Mali, certo non è un quadrante diciamo che interessa chissà quanti italiani, però poi c'è gente che ci va, cioè, ci sono ONG e così via. Allora, in realtà tutta la fascia sub-Sahel eccetera, quanto si è estesa di aree di questo tipo? Cioè, la Somalia, sappiamo che la Somalia c'è, ma si rischia per esempio anche in paesi come Kenya e così via? Anche lì è difficile dire in generale se si rischia in Kenya. Quello che noi possiamo dire è che ci sono determinate aree che adesso lei ha citato il Kenya, io non mi voglio riferire necessariamente a questo, ma ci sono determinate aree che in determinati periodi registrano presenze più o meno inquietanti. Faccio un altro esempio per chiarire possiamo dire un po' l'ineffabilità di questi fenomeni. Ricorderete tutti il caso delle due suore italiane rapite diversi mesi fa in quell'area. Beh, le suore, poverette, esercitavano la loro missione in Kenya e sono state rapite da delinquenti somali che dalla Somalia si sono recati in Kenya. Quindi, come vede, purtroppo è mio dovere mettere l'accento sulla come dicevo, l'imprevedibilità e la fluidità di queste fenomenologie. L'appello che lancio a tutti gli italiani che hanno a che fare con l'Africa, con la fascia del Sahel e così via, cioè la fascia che insomma dalla Somalia va fino passa per il Chad, Mali e così via, siccome e quei paesi sono interessati realmente da fenomeni in cui fame e malavita locale si collegano alle reti qaediste, di darsi qualche anche strategia di autorilevamento attraverso parenti o amici a ore fisse con apparecchi tecnologici anche non particolarmente complessi, perché il fatto di mancare all'autorilevamento ogni tot ore o una volta al giorno consente poi di evitare di apprendere rapimenti o problemi a distanza di troppo giorni di distanza. Questo è una elementare cautela, certo. Lo dico da ex esperto di queste cose, per così dire. Poi in ogni caso guardate sul sito della Farnesina la lista dei paesi e come viene aggiornata, perché può capitare anche al di fuori di quello che si legge sui giornali che ci siano fenomeni politici non rilevati e così via, per cui c'è l'aggiornamento da parte della Farnesina. Specificamente ora si è collegato con noi Andrea Nativi, che è direttore della rivista italiana Difesa, col quale volevo approfondire proprio dal suo punto di vista, come un po' nella disattenzione generale, nel fatto che in questa guerra al terrorismo tendiamo ad occuparci oramai di meno, è stata derubricata da che c'è Obama presidente degli Stati Uniti, e in realtà poi scopriamo che le reti di Al-Qaeda o comunque quelle dell'islamismo fondamentalista si sono diffuse, hanno un fenomeno di ibridazione e di trapianto in aree del mondo verso le quali siamo poco attenti. Buongiorno Nativi, lei ha l'impressione che la vicenda dei due italiani, al di là di non dare particolari troppo eccetera, sia un fenomeno di malavita locale, di predoni eccetera, o c'è davvero l'ombra di Al-Qaeda dietro vicende come questa in Mauritania, Mali e così via? Abbiamo letto tra l'altro di un aereo, un 727 su una pista nel deserto collegata ad attività di Al-Qaeda in cui c'era insieme il traffico internazionale di droga per alimentare correnti islamiste, non se ne è saputo quasi nulla, ma come stanno le cose da questo punto di vista? Ci dica. Ma io direi che il fenomeno c'è e è oggetto anche di attenzioni, anche se non di attenzioni da parte dei media occidentali, cioè non vuol dire che la lotta al terrorismo non si fa solo perché non si legge sui giornali, per fortuna, aggiungo. e in particolare nell'area del Sahel, l'ACMI, ovvero sia l'Al-Qaeda, l'islamismo, il fondamentalismo islamico, una derivazione di Al-Qaeda, poi quanto sia controllata dalla centrale, vabbè, si può discutere, è sicuramente operativa. Per fortuna c'è un tentativo di regia condotto anche discretamente dagli americani, che sono molto attivi con AFRICOM, il comando africano che è stato creato da poco e che tra l'altro ha una delle sue basi in Italia, per coordinare gli sforzi dei paesi più toccati, Mauritania, Algeria, Mali, Niger. Poi ci sono altri paesi che danno una mano, per esempio la Francia coopera con la Mauritania a dispetto del colpo di Stato, la Spagna si sta occupando del Mali, l'Algeria fa da sé fino a un certo punto, il Marocco ha anche aiuti significativi americani, Niger un po' meno, insomma le attività ci sono in corso. Certo che finché il problema del Sahel, del popolo Sahrawi, il referendum che non si fa, rimane in questo limbo, ecco che c'è un bel brodo di cultura per Al-Qaeda. I Tuareg, francamente, c'è anche una questione di rivolte, ribellioni dei Tuareg, ma i Tuareg sono predoni, fanno gli affari propri, fungono da collettori di rapiti, diciamo così, e per Al-Qaeda, glieli vendono e poi Al-Qaeda li rivende o se li usa al meglio. Non c'è una connessione diretta Al-Qaeda-Tuareg per ora, come non c'è una connessione diretta tra i Sahrawi e Al-Qaeda, anche se più si rimanda alla soluzione di quel problema, più la penetrazione di Al-Qaeda va avanti. Oh, alcuni hanno pensato che in realtà poi queste germinazioni di ACMI, insomma della rete di Al-Qaeda nel Maghreb, siano dovuti anche poi a sviluppi dei servizi segreti algerini. Beh, c'è qualcosa di analogo anche con i servizi segreti algerini, a qualcosa che ci riporta più o meno alla cosa dell'ISI e dei servizi segreti pakistani, cioè sono delle cose con cui l'Occidente crede e immagina di fronteggiare questi fenomeni e poi in realtà è proprio da questi servizi che nascono nuovi sviluppi di ciò che invece andrebbe contrastato? Ma direi, nel caso algerino direi di no, per l'Algeria addirittura il terrorismo è stata una questione di sopravvivenza, non, e poi del resto abbiamo visto che anche in Pakistan l'ISI alla fine si è svegliata fino a un certo punto, ma si è svegliata quando ha visto che c'era il rischio di destabilizzazione del governo pakistano, che poi si destabilizza anche da solo, ma questo è un altro discorso, ma proprio perché è così debole poi può essere destabilizzato. Ecco, l'Algeria direi che la guerra al terrorismo non l'ha vinta, ma ha dato delle serie mazzate al terrorismo. I servizi, a quanto mi risulta, sono abbastanza allineati in questo, non gradiscono tanto le interferenze esterne, ma se aiuto che deve arrivare, arriva. Ecco, in Algeria per esempio si sta creando un sistema di sorveglianza delle frontiere, ovviamente delle frontiere meridionali, molto forte. Lì c'è la gendarmeria che lavora in particolare con efficacia, e tra l'altro saremo noi italiani che, se si sbloccano alcune cose, potremmo dargli la tecnologia e i sistemi necessari per la sorveglianza di questi immensi confini più che porosi. Oh, nella sua esperienza, siccome questi due cittadini italiani, ma si aggiungono poi a una lista di cittadini spagnoli, francesi, medici e cooperatori umanitari che insomma in quell'area, area molto vasta a dire la verità, sono stati rapiti in quest'ultimo mese, in questo caso la trattativa con chi viene dipinto insomma come uno dei capi dell'ala meno oltranzista dell'islamismo, nome Mokhtar, Bel Mokhtar, oppure invece con Abu Zaid, che dicono sia il più tosto, ma chi è che finisce per farla? Finiscono per fare i servizi di quei paesi, i servizi francesi che sono i più radicati? Chi è che si incarica del non detto, per così dire, motivo per il quale dobbiamo naturalmente rispettare, evitare di fare qualunque riferimento diretto alla vicenda di Shikala e di sua moglie? Ecco, allora diciamo che il primo problema è trovare il contatto, perché non è detto che un medio paese, come può essere l'Italia o altri, abbia contatti diretti con tutte queste formazioni, anzi sicuramente non ce le ha e non ha attività operative, intelligence in atto in quei paesi, a meno che non ci siano accordi particolari. Quindi si tratta di passare tra gli amici e vedere se si riesce a trovare un contatto. Sì, si attivano anche le proprie reti di connessioni, magari ci si fa da soli, se non ci si fa si aiuta, si cerca aiuto, dopodiché la trattativa diventa un affare privato che viene condotta da chi è abituato a fare questo lavoro e che normalmente deve essere uno che è in grado di muoversi in quel terreno, in quegli ambienti, con disinvoltura e senza rischiare di finire a sua volta di ingrossare le file degli ostaggi, quindi è un lavoro estremamente delicato. Ho un'ultima domanda a Romano, il capo unità di crisi della Farnesina, che poi ci deve lasciare. Ci può dare un qualunque particolare, una stima, diciamo così, dei tempi, o siamo pure nella più totale riservatezza? Insomma, questi contatti possiamo rassicurare i familiari, lo sanno, ma possiamo rassicurare anche l'opinione pubblica che il nostro paese sta adoperando perché ci siano, naturalmente. Che ci può dire in materia, Romano? Esattamente come ha detto lei, possiamo assicurare che il governo sta lavorando su questa cosa con il massimo impegno e ci auguriamo veramente di poter risolvere la situazione. Io la ringrazio, buon lavoro, e nel frattempo tentiamo di capire ancora meglio come questi delicati interstizi tra leader tribali, collegamenti con reti fondamentaliste che poi affondano le proprie radici magari in opposizione a metà tra il politico e il tribale rispetto a governi che esercitano e soprattutto non esercitano la sovranità in parti del loro paese, con un testimone privilegiato, per così dire, anzi un protagonista in alcune delicate vicende che hanno riguardato cittadini italiani in passato. Siamo collegati con Marco Livadiotti, che è responsabile della Universal Touring Company, e lui vive da 40 anni in Yemen, dove da 25-26 fa il tour operator. Buongiorno Marco Livadiotti. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Livadiotti, come gli ascoltatori ricorderanno, in anni come il 2006 è capitato che turisti italiani siano incappati in vicende delicate di rapimenti, anche in quel caso a margine tra rivendicazioni di etnie di parti dello Yemen in lotta col governo centrale, che chiedevano la liberazione di prigionieri da parte delle autorità di Sana'a. C'erano vicende di denaro, c'è anche, come sempre, ciò che riguarda lo Yemen, un'ombra lontana. Io ricordo tutti che poi Obama perdonate, questa è un classico lapsus di quelli che non bisognerebbe fare mai, Osama non Obama. Io sono critico di Obama, ma se faccio questi lapsus poi passo la parte al torto. Ma comunque, che Osama Bin Laden è di famiglia di origine yemenita, poi trapiantato nell'Arabia Saudita. Ecco, in tutte queste vicende Marco Livadiotti, da conoscitore pluridecennale di quel paese e poi da chi per mestiere organizza turismo italiano da quelle parti, si è trovato anche, non vogliamo scoprire nessun aspetto delicato, a esercitare delle funzioni, insomma, di relazione in questi delicati contatti che vanno avviati e sui quali poi bisogna tenere la più assoluta riservatezza. Ecco, l'esperienza di Livadiotti, innanzitutto, è per rassicurare gli italiani che scelgono lo Yemen. Oggi si rischia ancora nello Yemen? Quali sono le norme a cui attenersi per evitare di finire nei pasticci? E poi, quando si tratta di intervenire in questa delicata terra di nessuno, in realtà con quali garanzie Livadiotti lo ha fatto in passato? Prego Livadiotti, ci illumini un pochino. Beh, possiamo dire che, io dicevo, lo Yemen è un po' una situazione anomala, in quanto gran parte del paese è abbastanza sicuro e devo dire che non ci sono problemi. Queste dimostranze di scontentezza che poi portavano ai rapimenti, ora succede sempre più raramente, e avvenivano in zone del paese, ma poche zone. La gran parte del paese si poteva girare e si può ancora girare abbastanza bene. Ci sono delle zone dove c'è ancora qualcuno che non è molto contento e spesso, appunto, come lei diceva, questi rapimenti erano soltanto perché volevano dimostrare la propria scontentezza, chi voleva un ospedale, chi voleva una strada, chi voleva liberare il cugino che stava in prigione. Ma il fatto positivo di tutto ciò è che comunque questi turisti che venivano rapiti, anche italiani e altri, sono sempre stati trattati benissimo, in quanto bisogna proprio ammettere che la popolazione nello Yemen è molto molto pro-turista, sono molto ospitali, per cui non ci sono proprio problemi assolutamente con la popolazione locale. E questi turisti sono sempre stati trattati benissimo e spesso, quando venivano liberati, parlavano sempre molto bene del loro trattamento. Ora purtroppo situazione è un po' cambiata, ci sono altri problemi internazionali, lo Yemen si è globalizzato e abbiamo altri problemi che tutti conosciamo. Quindi da questo punto di vista non si rischia molto, bastano elementari cautele, ma non si rischia più, lei dice? Ma dico, non si rischia molto, ormai mi dica lei qual è il paese dove non si rischia, è un po' difficile dirlo. Nello Yemen, se uno si fa gestire da un tour operator serio e gira il paese nei posti dove si può andare, i posti sono tanti, il paese è grande, io devo dire che comunque non ci sono dei grossi problemi, anzi abbiamo ancora adesso turisti che vengono, partono, non ci sono grossi problemi. C'è una zona del paese dove c'è una pseudo guerra civile in atto, lì non si va, ma ormai non ci andiamo da 2-3 anni. Ci sono alcune zone del paese dove si suggerisce di non andare, se non si va non ci sono grossi problemi. Grazie a Livadiotti. Torniamo un secondo ancora con Nativi, un focus di approfondimento. In realtà, nella disattenzione della grande stampa, ma gli americani che hanno messo in piedi questo comando tra le strutture verticali in cui dividono lo scacchiere mondiale, riservato specificamente all'Africa, al di là di questo, i paesi della NATO, del versante mediterraneo, quindi l'Italia, la Spagna, eccetera, che cosa fanno in questo delicato in questa delicata area del mondo, nella quale, nella parte sud del continente africano, la Cina fa tantissimo. Noi abbiamo un po' l'impressione che l'Europa c'è, non c'è, anche gli Stati Uniti, al di là di questa cosa che abbiamo ricordato di AfricaCom. E che cosa c'è dietro la riservatezza in realtà? Per esempio, Frattini va in Mauritania tra 2 settimane, in realtà uno dovesse dire: che ci va a fare? Ci va a fare perché la Mauritania fa parte dei paesi della fascia nord mediterranea che a noi interessa. Allora, diciamo che le attività sono innanzitutto concentrate con i paesi nordafricani mediterranei, dove si fa di tutto e di più, tutti. Non sempre in cooperazione, anzi diciamo come al solito non in cooperazione, ognuno per i fatti propri. Poi ci sono anche iniziative europee, per fortuna, ma per lo più ciascuno va a ranghi sciolti, cioè per i propri fatti. Nella parte centrale la situazione è un po' più difficile, africana, e lì alcuni paesi, ovviamente Gran Bretagna e Francia, hanno passato coloniale, la Francia è in fase di disimpegno netto, quindi lascia gli spazi alla Cina, gli Stati Uniti cercano di crearsi delle presenze con molta fatica perché vengono considerati pericolosissimi, cioè se una cosa la fanno i cinesi va bene, se la fanno gli americani già è molto peggio, però hanno grosse attività che stanno aumentando, soldi permettendo, perché avendo 2 guerre in corso è un po' complicato, ma le fanno. Più giù c'era una grande speranza per il Sudafrica, ma il Sudafrica adesso ha problemi suoi netti, vedremo cosa succede dopo il 2010. Certamente è una terra tra virgolette di conquista per le grandi potenze, è una terra di confronto anche tra le vecchie potenze e le nuove potenze, la Cina in questo è assolutamente spregiudicata, in certi paesi più o meno falliti ovviamente c'è una situazione ideale perché si sviluppino dei movimenti come accadeva per l'Afghanistan, cioè esatto. La Somalia è l'equivalente dell'Afghanistan in Asia e non c'è solo la Somalia che è proprio uno stato fallito, ce ne sono altri dove la situazione è fluida. La speranza che l'Africa possa badare da sola ai suoi affari è stata disillusa, l'ONU non ha soldi e non ha risorse, quelle missioni che fa sì qualcosa ottiene, vabbè, anche abbiamo visto Darfur, abbiamo visto in Sudan qualcosina si fa, al punto che qualche analista spregiudicato ha detto: vabbè, ma qui sarebbe il posto ideale dove privatizzare la sicurezza e le operazioni di crisis management. E infatti vedremo se purtroppo il mondo non sarà costretto a rioccuparsi, a rifocalizzare la propria attenzione su questa vicenda della sovranità sovranità non esercitata e del terrorismo che si insinua laddove la sicurezza è l'emergenza per tutte le popolazioni. Comunque, per gli italiani, con ultimo pensiero a Sergio Cicala, sequestrato insieme alla moglie Philomène Kabouri, un pensiero ai loro familiari e una speranza che tutto evolva per il meglio, però grande attenzione per tutti quelli che partono. Non andate in paesi senza capire dove vi state cacciando, con la illusione che non ci siano problemi seri da fronteggiare. Grazie anche ad Andrea Nativi. Quando dicevo, un ascoltatore benevolmente mi sfotte, cioè, che vuol dire ex esperto di sicurezza? Vuol dire che c'è stato un periodo collegato anche ad attività che ho fatto militare eccetera, in cui ero più esperto di procedure di sicurezza. Questo volevo dire quando ho detto ex esperto. Eccoci tornati in studio in questa vigilia di Natale, in una puntata che abbiamo prima dedicato ai rischi in alcuni paesi per gli italiani che magari partono senza troppo pensare a quali tipi di pericoli per la sicurezza e per la sovranità non esercitata in alcune aree del pianeta in cui si va incontro. Naturalmente poi ci sono italiani che sanno molto meglio che cosa consistono questi rischi, quelli che si occupano di assistenza allo sviluppo di ONG, eppure anche loro, come testimonia questa vicenda in corso con due cittadini italiani rapiti in Mauritania, a volte finiscono in reti di crimine e di terrorismo. Ma in questa seconda parte invece facciamo un rapido giro, tre capitali, e come in queste tre capitali, in questo 2009, anno della più grave crisi economica del secondo dopoguerra, l'Italia è mutata in qualche maniera agli occhi di chi vi opera. Ha acquisito più peso, meno peso? È rimasta nella più totale indifferenza rispetto a come le vicende italiane vengono viste dall'estero? Ecco, lo vediamo con alcuni colleghi che da anni coprono prestigiosamente le informazioni presso questa sede. Iniziamo innanzitutto con Adriana Cerratelli, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Allora, in questo 2009 che va a chiudersi, il bilancio dell'Italia in realtà a Bruxelles è un bilancio di qualche miglioramento delle nostre posizioni? Pensiamo alla recente formazione della Commissione Europea. Insomma, si vede e viene pesato il fatto che a Roma viene ripetuto che noi ce la siamo cavata meglio degli altri in questa crisi, che non abbiamo il debito pubblico aggiuntivo che hanno gli altri, che abbiamo meno debito privato degli altri, quindi che tutto sommato, come dice Tremonti, un giorno sì e l'altro pure, noi dovremmo piantarla di considerarci i vigilati speciali, perché c'è chi ci vigilava sta peggio di noi. Ma a Bruxelles questo si è visto in questo 2009, Adriano? Allora, io direi che bisogna forse scindere in due la domanda, nel senso, per quanto riguarda, diciamo, la gestione dei conti pubblici, la capacità di controllo dell'Italia sul deragliamento generale è stata comunque, diciamo, per certi aspetti relativamente migliore di quella di altri, e questo viene riconosciuto dalla Commissione Europea anche nei suoi rapporti che vengono presentati con una cadenza semestrale più o meno. Quindi sotto questo aspetto, non che naturalmente all'improvviso l'Italia sia diventata una virtuosa, perché la situazione strutturale del paese non è quella, però diciamo nella crisi è vero che l'Europa ci riconosce di aver saputo gestire o perlomeno tenere sotto controllo la situazione meglio degli altri, forse anche perché avevamo la perfetta consapevolezza che non ci potevamo naturalmente permettere di deragliare come hanno fatto tanti altri. Detto questo, e questo va sicuramente a merito del governo, per quanto riguarda invece l'influenza, il peso, il prestigio dell'Italia in Europa, ma direi che non è migliorato, al contrario si ha la sensazione che il nostro declino relativo non si sia per nulla arrestato. Ricordo semplicemente le vicende della nostra corsa alla presidenza del Parlamento Europeo con Mario Mauro, che si è conclusa con una sconfitta, poi la partita per D'Alema, un'altra sconfitta clamorosa, questa per certi aspetti non del tutto imputabile al governo, anzi direi forse quasi per nulla, nel senso che è una candidatura partita dall'esterno, dai socialisti europei, e poi affondata, però affondata con una tale spregiudicatezza che secondo me fa riflettere appunto sul peso relativo in declino dell'Italia, perché io mi chiedo se sarebbero comportate allo stesso modo, per esempio, dico a caso, con la Spagna, per non citare i grandi paesi. Quindi questo e poi il fatto che per esempio le nostre posizioni negli organigrammi delle istituzioni europee continuano a non essere per nulla in via di rafforzamento, al contrario. Il portafoglio del commissario Tajani, però, per una volta rispetto a quello dei trasporti, avendo l'industria, è quasi, insomma, direi che è più pesante di prima, o no? Dunque, il portafoglio dell'industria naturalmente è un portafoglio molto bello e molto prestigioso, nel senso che naturalmente l'industria è l'industria. E in più l'Italia è sicuramente un paese industriale manifatturiero, prima il portafoglio era della Germania, oggi è dell'Italia, dunque è sicuramente una buona cosa. Però dal punto di vista dei contenuti, paradossalmente ne ha meno di quello dei trasporti, perché i trasporti avevano per esempio la gestione della politica della concorrenza nel settore, cosa piuttosto importante, e anche dei fondi da gestire, tutte le reti transeuropee, eccetera. Mentre il portafoglio dell'industria, a parte il fatto che è stato in parte depauperato, per esempio nel settore farmaceutico, cosa piuttosto pesante anche nel nostro caso nazionale, ma poi è un portafoglio che veramente non si è mai sviluppato, anche quando i tedeschi l'hanno avuto, hanno cercato di farlo, non sono mai andati da nessuna parte. Perché? Perché l'Europa non vuole avere una politica industriale. Non riesce ad intendersi sul concetto, non intende metterci risorse, e quando c'è stata appunto la grande crisi di quest'anno abbiamo ben visto che tutti gli interventi sia nel settore finanziario che nel settore industriale, vedi il caso Opel, sono stati clamorosamente nazionali. Ed è per questo che per certi aspetti il portafoglio che oggi ha il commissario Tajani potrebbe essere diciamo il principio di una nuova avventura, di una politica industriale europea. In questo senso sarebbe sicuramente un portafoglio strategico. Il problema è che io purtroppo non vedo in Europa una volontà di come dire, di accelerare sull'integrazione, che pure la globalizzazione ci imporrebbe. L'abbiamo visto anche nella partita sul clima a Copenaghen. Io c'ero, è stata una tragedia per l'Europa dal punto di vista della marginalizzazione completa. Direi oggi c'è un'intervista di Emma Marcegaglia al Corriere della Sera in cui proprio chiude su questo, dicendo: ma l'Europa pensava di fare la prima della classe sull'Europa, non l'hanno neanche sentita gli americani e i cinesi, insomma una vera tragedia. Adriana, ti chiedo un'ultima cosa. Io benedico veramente il realismo di Adriana Cerretelli, che ci aiuta a capire che no, l'Italia non è proprio molto migliorata nel suo status a Bruxelles, e anzi pure l'Europa è peggiorata nelle sue ambizioni. Un flash, partita per la BCE, c'è una chance italiana secondo te? Allora, è una cosa complessa, nel senso che è una partita, se io dovessi scommettere direi di no. Aia! Punterei piuttosto sul fondo monetario per Mario Draghi. Ma scusa un secondo, volo per chi ci ascolta. Noi siamo reduci da la fondazione BCE, nasce sotto la quadra Bundesbank. L'olandese che è un prestanome dei tedeschi, sì, lo semplifico, ma c'era Otmar Issing, il capo economista, che faceva il vero guardiano per conto dei tedeschi. Poi un francese. Perché l'italiano secondo te dopo? Ma secondo me in questo caso non è per una questione di candidature, perché anzi in Europa Mario Draghi viene ritenuto un uomo di tutto rispetto, di tutto prestigio, sicuramente un candidato credibile e accettabile. Il problema è che ci sono dei giochi sulla nostra testa, che sono i soliti giochi franco-tedeschi, per cui sembra, per questo dico che non è sicuro quello che dico, però la sensazione è che la Germania della Merkel voglia la BCE per Axel Weber, anche se gli osservatori ritengono che Draghi sia meglio di lui. Ecco, però su questo ti devo interrompere. Di pesi e contrappesi e di influenza dei paesi. Su questo ti devo interrompere. La partita Draghi Axel Weber sarà la partita. Io ricordo a tutti che i tedeschi con Axel Weber ci hanno detto, quando la cattiva qualità degli attivi bancari tedeschi, qualcuno ha osato alzare il ditino, Axel Weber sul Financial Times, il governatore della Bundesbank, ha detto: signori, noi non vi consentiamo di venire a guardare gli attivi bancari tedeschi. Quindi insomma, anche per questo secondo me Mario Draghi servirebbe a riequilibrare, perché il vero problema degli attivi bancari oggi sono quelli germanici. Grazie Adriana Cerretelli, continuiamo questo nostro giro. Abbiamo collegato Fabrizio Dragosei, che è corrispondente del Corriere della Sera da Mosca. Buongiorno Dragosei. Ci sente? Buongiorno. Senta, uno degli aspetti che in Italia, secondo me, non so quanto sia compreso, è questo altalenante, ma in generale sempre molto positivo rapporto che lega il premier Berlusconi rispetto al presidente Putin, a Medvedev, eccetera. In realtà, stando a Mosca, nei media russi, nella politica di quel paese, ma l'Italia conta davvero così tanto come si ha l'impressione con le cronache di politica interna invece animate qua su questo tema? Ma l'Italia sicuramente è considerato un paese amico e questi rapporti Putin-Berlusconi non sono tanto altalenanti, cioè sono sempre stati molto buoni, particolarmente buoni, diciamo. Però detto questo, nelle grandi partite internazionali Mosca sa bene, e anche la gente che legge i giornali se ne rende conto, che i veri interlocutori sono altri, sono gli Stati Uniti, sono la Cina per tutto un versante che magari noi seguiamo poco dall'Europa, che è quella appunto della grande partita energetica dell'Asia centrale, e ci sono nuovi rapporti tra Russia e Cina. E poi in Europa i grandi interlocutori sono soprattutto Germania e Gran Bretagna, la Francia di meno. La Francia anzi è un paese considerato abbastanza ostile alla Russia, così come la Gran Bretagna, però la Gran Bretagna è ritenuto uno dei grandi giocatori internazionali. E quando si tratta di affrontare le questioni del nucleare iraniano, per non parlare ad esempio appunto del problema della dislocazione di nuove armi difensive o offensive, come pensano i russi, cioè i missili che la precedente amministrazione americana voleva installare nella Repubblica Ceca e in Polonia, ecco, i russi non pensano di rivolgersi agli italiani. Con gli italiani giocano soprattutto la partita energetica, questo perché, come sappiamo, l'Italia è un partner storico della Russia oggi e dell'Unione Sovietica prima, tanto che recentemente l'amministratore dell'Eni, Paolo Scaroni, in un incontro ricordava che nel suo studio c'è una foto di Enrico Mattei, il fondatore dell'Eni, con Kosygin, che all'epoca credo fosse presidente del Soviet Supremo, e parliamo degli anni 50, quando l'Italia iniziò ad acquistare gas. Eccoci, tornati in studio, siamo collegati con Fabrizio Dragosei, corrispondente del Corriere della Sera da Mosca. Si parlava del grande motivo, insomma, del rapporto che nei confronti di Mosca Roma tiene in maniera colorosa, la partita energetica. La domanda è: ma per gli interessi geostrategici di Mosca e della Russia, di Putin e di Medvedev, in realtà Germania e Italia, cioè l'asse nord europeo e quello sud europeo, che nella grande partita che raccontiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori delle diverse pipeline, dei diversi gasdotti, noi viviamo come se fosse in concorrenza lo scacchiere sud europeo al quale apparteniamo rispetto a quello nord europeo. Dal punto di vista di Mosca in realtà sono più complementari che concorrenti, quindi Mosca si può permettere di giocare un po' al gatto e al topo, alternando concessioni e rapporti calorosi con i politici tedeschi o ex politici tedeschi, come è il caso del cancelliere Schröder, e invece uomini politici e vertici dei grandi gruppi energetici italiani, è così, no? Ma diciamo che Mosca ritiene sia le iniziative a nord, cioè il gasdotto che attraverso il Mar Baltico dovrebbe unire direttamente la Russia alla Germania, sia le iniziative a sud, cioè il cosiddetto South Stream che passa sul fondo del Mar Nero, ritiene due operazioni complementari in un'unica strategia, che è quella di saltare soprattutto nelle forniture verso l'Europa, saltare quei paesi intermedi con i quali Mosca vuole più dover fare i conti, perché sono paesi a lei ostili, e parliamo soprattutto di Ucraina e paesi baltici e ovviamente anche Polonia, e sono paesi con i quali ha problemi economici, e parliamo in questo caso soprattutto di Ucraina e Bielorussia. Cioè la Russia, e da questo punto di vista l'interesse nostro, ahimè, è convergente, nostro intendo sia italiano che tedesco, è convergente con quello di Mosca, è un interesse unico, cioè quello di avere queste forniture sicure, dirette e senza dover dipendere dai rubinetti ucraini. Ricordiamoci, ucraini a sud o bielorussi o baltici a nord. Un'ultima domanda, Plesch, un po' delicata. Quando si tratta di spiegare ai tuoi lettori perché visite recenti di Stato avvengono, diciamo, a ranghi molto ridotti, senza neanche gli ambasciatori della Farnesina, è un punto che, sul quale sorvoli, o un punto sul quale a Mosca si riescono a ottenere informazione? Da che cosa dipende, secondo te? Ma ottenere informazioni a Mosca oggi è di nuovo molto difficile come in anni passati. Io credo che dipendano dal fatto che questi due personaggi, Putin e Berlusconi, che sono convinti di avere un rapporto particolare tra loro, vogliono regolare le questioni direttamente. Non so quanto la cosa sia utile effettivamente, perché poi sui dossier gli specialisti sono utili, però loro la pensano così. A volte capita pure, come magari è stato il caso dell'ultimo incontro vicino San Pietroburgo, che incontri che in realtà dovevano essere privati poi vengano ammantati di un aspetto pubblico, convocando all'ultimo momento dirigenti di aziende, eccetera, per dare così un senso politico generale ai incontri. Grazie, grazie a Dragosè. La mia opinione personale è che quando leader che sono così discussi, sanno di esserlo, ammantano di riservatezza, credo che alimentino ulteriormente che cosa? Quella corrente di sospetto, che è una componente molto forte che pesa nel giudizio di uomini politici molto diversi. Adesso, naturalmente, non voglio minimamente accostare Berlusconi a Putin, Putin a Berlusconi, insomma, la situazione dell'informazione e della libertà in Russia rispetto a quella in Italia. Comunque, quest'aura di riservatezza, secondo me, a volte aiuta poco, perché i sospetti lì rafforza sugli aspetti politici e quelli di affari nei rapporti tra i due paesi e i rispettivi entourage. Altro terzo flash finale, questa volta da Londra. Abbiamo collegato Leonardo Maisano, il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Buongiorno Maisano e grazie. Buongiorno a tutti. Londra è alle prese con problemi seri, propri, per così dire, le elezioni che si avvicinano, i laboristi in caduta a picco, anzi stanno riguadagnando qualche punto, visto che sono risaliti sopra il 30%, che non è certo un granché, i conservatori sono 10-12 punti più avanti, però insomma la Gran Bretagna, fallimento di banche, recessione ancora col segno meno, quindi credo che l'attenzione verso l'Italia sia complessivamente non molto elevata. Detto questo, ricordo che mesi fa i britannici scoprirono che i lavoratori italiani andavano nel nord e i lavoratori britannici si resero responsabili di atti di intolleranza nei loro confronti, chiamando la concorrenza impropria. Era avvenuto anche in Francia, a dire la verità, ma visto da Londra, per quello che riguarda la vita politica inglese ed economica inglese, l'Italia ha guadagnato qualche punto, perso qualche punto, indifferente come prima la Gran Bretagna ai nostri destini? Ma sostanzialmente direi indifferente, ma a qualche punto casomai l'ha guadagnato. Oggi vedo che i siti, per esempio del Financial Times, danno ampio spazio allo scudo fiscale con parole tutto sommato non di critica ma di considerazione, o comunque di come intonazioni positive. È un esempio, ma non c'è dubbio che il fatto che l'Italia abbia navigato questa crisi in modo molto meno drammatico di quello che è successo in questo paese, anche se non porta a fare un esempio diretto, guardate gli italiani, perché questo è difficile che possa avvenire per molte ragioni, è ovvio che di rimbalzo nei commenti talvolta ci sono dei riferimenti. Ti interrompo per ricordare una cosa. Prima Adriana Cerretelli ci ha ricordato che nella partita italiana in Europa, tanto per quello che riguarda la famiglia dei popolari, Parlamento europeo, candidatura a Mauro andata male, tanto per quello che riguarda la famiglia socialista, candidatura D'Alema per Mr. Pesk andato male. Comunque in quel caso, in questo secondo caso, la partita l'ha giocata Gordon Brown e la Gran Bretagna si è messa potentemente per traverso alla candidatura italiana. Era una vicenda in cui pesava anche un giudizio della politica britannica, laburista in quel caso, nei confronti dell'Italia, o era un regolamento di conti interno alla famiglia laburista, come a molti è sembrato e molti l'hanno descritto sui giornali, in previsione di perdere le elezioni, mettere un proprio candidato e rafforzarsi almeno in Europa? Ma questo senz'altro, cioè quella è un'esigenza. Partiti con la bandiera Blair, resosi conto che Blair non poteva passare, non sarebbe passato, hanno giocato, secondo me, poi tra l'altro non con grande abilità, la posizione di Mr. Pesca, con il nome tutto sommato di un candidato di scarso peso e di non grande evidenza, lasciando che poi invece i francesi andassero su Barnier e quindi su un commissario che nell'immaginario britannico, ma non solo, potrebbe avere delle influenze importanti sugli sviluppi della crisi inglese o quantomeno sull'uscita inglese dalla crisi. Della partita che abbiamo evocato sempre con Adriana Cerratelli alla fine del suo intervento, una partita di lungo periodo che si inizierà a giocare verso la fine del 2010, ma insomma in autunno entra in un momento delicato, quello per la guida della Banca Centrale Europea dopo Trichet. Con l'ottica di Londra e col problema aperto a Londra da questo massiccio intervento pubblico nelle banche come Royal Bank of Scotland, Lloyds e così via, e naturalmente con un paese che sta fuori rispetto all'euroarea, in realtà la candidatura Draghi è una candidatura che viene vista con questi occhi britannici alla luce della specificità del problema bancario britannico come una candidatura più favorevole agli interessi britannici di quanto sarebbe quella di Axel Weber tedesco, oppure anche lì indifferenza rispetto a Mario Draghi? No, è difficile dare una valutazione in termini squisitamente, come dire, in prospettiva strettamente inglese. Il personaggio, cioè Draghi, qua piace. È uomo. Anche perché dicono che Mervyn King, il governatore di Bank of England, sia molto stretto nei suoi rapporti con lui. No, assolutamente. Cioè, è uomo che piace molto, conosciuto non soltanto per le sue precedenti posizioni, ma anche per il suo ruolo, anche quello precedente in Goldman Sachs. Quindi, voglio dire, persona che qui a Londra era molto ben conosciuta e assolutamente stimata, quindi l'uomo Draghi piace molto. Che questo possa bastare, perché poi c'è il paese, non c'è soltanto la persona in queste nomine, come tu ben sai, e quindi sarà un po' difficile, in questo momento stabilire, in vista di quella nomina, come si posizionerà Londra. Una cosa è sicura, non c'è nessun pregiudizio nei confronti di Draghi. Grazie anche a Leonardo Maisano. Come vedete, rapida carrellata, ma insomma non montiamoci la testa. Il giudizio dell'Italia non è di molto migliorato, ce la siamo cavicchiata meglio degli altri in ragione del fatto che il debito pubblico ce l'avevamo sulle spalle, sapevamo che non potevamo fare grandi follie. In generale nessuno ci fa sconti e quindi inutile fare ruote del pavone, e soprattutto la debolezza politica italiana, lo scontro della politica italiana non ci aiuta. Questa è la conclusione della puntata di oggi ed è anche il mio augurio per un buon Natale, un po' di serenità per tutti e che la politica ci aiuti facendo meno guai di quelli che ci regala. Questo è il problema, lo dico da contribuente, dichiaro sempre il mio punto di vista innanzitutto come cittadino. Sì, queste tasse mi pesano rispetto a quello che mi danno. Buon Natale a tutti, io ringrazio in regia Fabio Cantadori per oggi, sperando di aver sbagliato anche il suo di cognome, perché oggi ho un grande mal di testa. In redazione ringrazio Guido Scotti, la linea giornale radio. Noi ci sentiamo lunedì, perché domani, come per il primo dell'anno, sarà Fabi, il direttore, a sostituirmi con una puntata speciale. Ancora buon Natale a tutti. 9 in punto, la versione di Oscar.